Mamma, no, mi passa anche la voglia, 10.000 lire di vermi, poi vado, mi compro il pesce in pescheria direttamente, manco a pigliare il freddo, a rinfrescire le scarpe di sabbia, lenze incagliate, bestemmie, maledizioni, mi ricordo. Ma non devi prendere così, io la prendo come una giornata classica, sotto la sedietta, mi siedo, mi parlai, tanto, poi si avvicina a tutto quel tipo, ma se ne hai il carretto, va bene, va bene. E lei, se va bene, le sedie. Ma no, che fai? Non so fare. Te le regalo, dove? Ma poi in effetti costava 50 euro, 50 centesimi. E d'altronde l'americano, almeno per me, era l'esca migliore, per via del sangue. Invece i cosi sono troppo teneri, i coreani si cioè, bastava tirarli appena le dita, si sbrandellavano tutti i coreani, no? Vabbè, bigattino, ma non niente di che il bigattino, non mi ha mai entusiasmato. Io ho visto sempre gli americani, ma perché sta uscendo voce in basso, Gianni? Non arriva qua. Mi copri, Claudio? Che dici, io sovravolo lì. È lontano dal mic. Due scatole, me ne ha mandato una scatola. Santiago 9, boh. Sono andato e... Non erano grossi, erano bellissima. C'era la calata del mare, c'era caldo, anzi c'era un caldo umido, e c'era l'acqua che bolliva. Di notte, all'una di notte stava bollendo l'acqua. Eia, vediamo una prova. Gianni, eri lontano dal mic, giusto? Chi vuole entrare avanti? Ci sei? No, un'altra persona ti ascoltava a basso. Non ho capito però se di radio o di segnale. Qua sembrerebbe tutto nella norma, tra le 9.15 e 9.20 stai arrivando già. No, qua sta arrivando Santiago 9, la radio bassa. Ciao Claudio, ma sei su o sei giù? Io sono sempre giù, in campagna. Ma il segnale è solo 9, è possibile? In confronto siete più vicini voi, eh? Ma il tuo segnale è 9 più 20, su è 9, bro. Il mio corrisponde, sì, il mio corrisponde, sono con 3 watt, eh. Quella volta che era arrivato 9 più 30 era perché... da Monello. Vuol dire lui sta usando la LAN 48 con pochi watt, non so, sta arrivando a basso qua. Io sto usando la LAN 48 con un watt e mezzo. Vabbè, già, però siamo a basso, non so. Molto basso, vabbè, comunque ti ascolto lo stesso. Ciao, buonasera a tutti, dai, sono entrato per salutarvi. Vado a rinfrescarmi, ciao. Ciao, ciao, Cla, ci sentiamo, dai. Da te Marco, arrivo bene come segnale. Allora, sì, ho guardato, praticamente 9 più 20, qua poca differenza c'è, 9 più 20, dai, diciamo. Il segnale mio da Claudio è il solito, io, buona rinfrescata Claudio, beh, perché c'è la piscina. Qua all'impo posso riempirmi la vasca di acqua e buttarmi dentro. Ascolta, il mio segnale è come lì da te con l'antenna, vabbè c'ho l'antenna adesso, come lì da te il segnale, come quello di Sassari o più basso? 9.5. No, qua è forte, qua sembra come quello di Sassari, 9.25 pieno. Non proprio 9.30 ma a metà strada, quindi 9.25 è pieno. Ok, dai, già va bene allora. Sì, vado a rinfrescarmi, dai, ci sentiamo più tardi se coincide, altrimenti ritenetevi salutati. Buon inizio settimana a tutti, ciao. Ehi Claudio, qua è mortorio, qua sta diventando tribula la situazione in 27. Tribula, altro che mettere baracchino in macchina. per aver compagnia. Oh, tutto il giorno acceso, non ho sentito un cane, adesso ho sentito voi, ho sollevato il volume. Va bene, dai, normale, normale. Poi col freddo escono tutti con le pellicce, con i guanti e con i berretti, dai. Speriamo, e se no non me la fu tenuta. Ciao. Ah, ciao, ciao. Avanti, Manuele, ti abbiamo chiamato 30 volte. Manuele. Dove Manuele? Non l'ho sentito io. Salutato anche. Non l'ho sentito, non l'ho sentito, adesso l'ha salutato quando stavo parlando io, ma mi sembra strano che mi sovramoduli. Vabbè, non l'ho sentito, comunque se c'è, c'è anche a lui. Quanti sovramodula è come? Sovramodula. È vicino a casa. E beh, che cazzo. Ci mancherebbe altro proprio lì attaccato a te. Se di uno è nato all'altro. Va bene, dai, qua arriva 9. Ehi, quanto a te arriva qua, più o meno? Vagava. Manuele, avanti, saluta almeno. Ehi, dai, mi approfitto. Ciao Claudio, ciao Marco, dai. No, stavo ascoltando, dai. Ciao Gianni, che sto facendo una cosa qua in casa. Dai, rimango in quelli, a te già. Ti ha visto che c'era Manuele, l'ho riconosciuto la voce. Ciao Manuele, non so cosa tu stia facendo, spero che siano cose bene. Io se da poco fa mi stavo preparando le lenze nuove con il mulinello nuovo che mi sono comprato e mi stanno di nuovo la pesca. Ma si fa vedere solo tu, io non riesco a salutarlo che sto andando via. Ciao Manuele, un saluto. Alle prossime, dai, 5, 9 più 5, quasi 9 più 10 qua, ciao. Ciao Claudio, ben sentito anche a te, dai. Riprendi Marco lì. Ciao Manuele, dai, se sei indaffarato, dai, continua a fare quello che stai facendo, poi già ci sentiremo quando capita. Ok, mamma mia, qua c'è una cosa... tutto mi ha aperto mamma, cioè il sole batte qui, mi ha aperto la porta finestra, di nuovo il caldo, ma che senso ha aprire tutto col caldo fuori, bisogna aprire di notte, non... vabbè lasciamo perdere, Gianni riprendi, ciao Claudio, dai, buon proseguimento di serata. Io ho ripreso, ho aperto Marco, c'è anche il sole, però qua fa un po' di corrente e si sta bene. Che fa correre tra la sala e la camera da letto, capito? Che ho visto dai cinesi, l'ultima invenzione dei cinesi. Che invenzione già? Un ventilatore che ti fa l'aria fresca, ma di brutto, Quello con l'acqua. Il ventilatore con l'acqua l'hanno inventato. Vai da brico, ma dall'entrata lo vedi. E da un po' di fresco. Tu praticamente ti avvicini e senti proprio l'aria fresca, non calda. Ah, cioè ti nebulizza l'acqua attraverso le palle del ventilatore. Quelle cose le vedevo a Roma, a Milano, nelle grandi stazioni, roba grossa però, E praticamente spingeva l'aria e spingeva le particelle nebulizzate di acqua. Solo che poi l'umidità aumenta, cioè il tasso d'umidità in camera sale in modo impressionante. No, c'è un sistema, non nebulizza niente, c'è un sistema sicuramente che lo fa andare a lì e lo fa uscire in aria, nelle eliche, capito? In forma d'aria e basta, non nebulizza niente. L'aria è proprio bella fresca, Marco, io mi sono avvicinato, proprio ho preso da vicino anche se c'è l'aria fresca, stavo per comprarmelo. Ah, ma allora è un raffrescatore d'aria, il cosiddetto raffrescatore d'aria. Hanno molte forme, certi sembrano dei veri ventilatori, certi sembrano delle stufe invece, no? In forma parallelepipedo, no? Io questo ho un ventilatore di quelli grandi che girano, ce l'ho preso di normale ventilatore quello grande che gira, solo che questo qui c'ha la vaschetta con l'acqua sotto, capito? Sì, allora è di tipo evaporativo, è un raffrescatore d'aria, però tu mi hai detto che rinfresca, cioè te ne accorgi che rinfresca. Io l'avevo sentito da Ocean, uno di quelli là, di marca, quelle marche che avevano loro, no? caspita se usciva, caspita se usciva l'aria fresca, e come? Poi vabbè, avevo accantonato un po', sai come faccio io, no? Quando c'è molto caldo mi dispero e voglio il raffrescatore d'aria. Appena scende il caldo, gli dico, ma siamo in affurti, poi torna il caldo e di nuovo lo voglio. Cos'è che oggi, siccome c'era una canna libera senza bulinetto, vabbè, ero d'attore stamattina, sono andato a comprarmi le Starlight perché un tipo che stava pescando si è avvicinato e ha detto, ascolti, non è che mi prende due Starlight? E ha detto, te le regalo, lo so, ma quel prezzo quanto costa? Io pensavo di più, invece costava 50 centesimi la bustina, ce ne sono due, quindi non ho fatto un grosso regalo, va. E fatto sta che io stavo pescando con i bimbi, non stavo mangiando nulla, ho detto una baranoia, no? E invece poi quasi alla fine sono riuscito a beccare, prima con una canna e poi con l'altra ne ho preso due, saraghi e un'ora. Ah, il bibi, quel vermone di colore chiaro, me lo ricordo. Io cosa? Un po' di tutto ho provato, mi. Americani, migliori, coreani, bibi, avevo provato anche la cordella, quel verme lungo lungo rosa che nella scatolina c'è una cosa che a me sembra, non lo dico a parole mie, merda, e l'odore è anche quello, secondo me la leva non è la cacca, cioè vive in quell'ambiente. Un fiago, non l'ho più comprata, mi stavo facendo venire il vomito. La cordella la vendo dalla primavera in poi, ed è un verme che vive fuori del frigorifero, non si deve mettere in frigo quella lì, è limaccioso, ti scivola tra le mani, è schifoso, a me non piace. L'ho provato un paio di volte, ma... sì, pescare peschi con quello, però rimane limaccioso, proprio scivoloso, tipo l'anghita. Beh, bla, no, ma poi quell'odore di quella roba lì, cioè, a me sembrava cacca davvero, mi. Cacca umana dal viaggio. Insomma, e che altre esche ci sono? Per esempio i canolicchi, sì, canolicchio, conosci un pescatore, deve avere il culo che li portino tipo da Sportland, sempre che li portino. Vengono anche al mercato i canolicchi delle pescherie, cosa devi dire? Ci vedevamo anche noi. Il canolicchio è particolare, cioè se peschi in un posto dove ci sono canolicchi si pesca, lo puoi mettere anche in terra. Lo larghi appena appena, li pescare la dentro e poi si stringe e stringe la lenta. L'orata se lo mangia così, se lo mangia un boccone, quelli che viene da speciale anche di sopra, e a bocca su, non c'è problema. E invece, cosa ti stavo dicendo, io li uso anche in altri due modi, praticamente lo apro, lo rendo tutto di amicizia all'interno, e poi lo lancio, così prendi pesci da fritto, tipo saraghetti, roccali, da roba così. Invece se lo metti, lo puoi mettere anche tutto il bucciato e lo levi proprio nell'attico, lo metti col lago come fa col verme, li metti la parte centrale, non quella che c'è attorno, quella centrale, e lo fai entrare come il verme e poi lo leghi con il elastico e dopo mi dire la risposta, se ci sono pesci grossi li prendi, solo che se ci sono pesci tutti lo rimani in tutto e non ti abbi più in mano. E poi l'errore grande mio era di usare ami piccoli, cioè quegli ami che usavo io li consideravo enormi, grandi, no? Però poi i pescetti piccoli si mangiavano tutto. Quando ho visto i tuoi ami, quelli chiusi per le orazze, sono rimasto impressionato. Ma questo è un amo da squalo, non è amo da orazzo. E l'errore mio è stato soprattutto quello degli ami. A parte che non ho mai affinato le tecniche, cioè io non uscivo, quando andavo a pescare lo facevo tanto per prendere aria, non me ne fregava molto di pescare. Per esempio quando si era in gruppo, io non stavo sempre con la canna in mano, aspettavo, io piazzavo sul portacanna, di notte almeno, no? Mi coricavo sull'asciugamano e ho detto, beh, buonanotte signori, avvisatemi quando abbocca. ogni tanto cambiavo il verme, sì, però con la canna in mano non mi piace stare ore e ore con la canna in mano. Se vuole abboccare bene, di suo, se no, pazienza. Poi avevamo un amico come te, quando metteva la canna, però invece al posto dello starlet ci metteva la campanella. E quando era bella addormentato, lui tridini, faceva suonare la canna e poi scappava. E lui si alzava, no? Ma cominciava a tirare, lui tutti ridendo. Che poi non dormivo, però mi piaceva sdraiarmi a guardare la volta celeste, no? Sai, lontano dalla città, vedi il cielo stellato, molto molto bello. È così, però l'umidità di notte, mamma mia, mi entrava nelle ossa, nonostante i golfi e tutto. Va bene. Che dire? Ho visto due stelle cadenti. Due, una che invece che scendere in verticale era in orizzontale, allucinante, un po' veloce, poi si è spento, e l'altra invece è scesa proprio in verticale, verso terra, dall'alto verso il basso. Ma quella orizzontale ha fatto molta luce, più luce del normale, è più lunga la corsa anche. Non è che era un bolide, no, proprio quelle che entrano di taglio nell'atmosfera e bruciano completamente. Certe, se le vedi, sono impressionanti, né? Tipo quel filmato di YouTube, quella stella cadente che era scesa in Russia, no? Ha fatto una luminosità che ti abbagliava mentre bruciava, ma poi il botto che è arrivato, un botto tipo bomba atomica. No, queste qui erano silenziose, sì Marco, era così, era molto luminosa e una saetta ce l'ha presente, di colpo è passata e poi si è spenta. Ma è durata una frazione di secondo, perché quando è, cioè, più grosso è la stella cadente, no? Con meteorite, quello che vuoi, no? Un pezzo di roccia spaziale, più grosso è, più ci mette tempo a bruciare l'atmosfera. Quella che era caduta, cioè, che era bruciata in Russia, ha fatto vedere degli uffici della strada il botto che ha fatto. Ha fatto un azzocco. Di giorno, al calare del sole, un po' il sole era quasi calato. Ha fatto un bel botto. E una bella luce anche. Deve essere un bel sassetto, Vabbè. Tu mi hai detto che mi stavi ricevendo uno Santiago 9-10, come quando l'ho provato dalla macchina, confermi? No, 9+20, fammi guardare bene. 9+20, dalla macchina avevi dato 9+10. E vabbè, comunque andava bene, dai, stava pompando bene. Ma sai cos'era il mio coso di fare, cosa fare? Prendere due pinzette di quelle che si attaccano alle batterie, le prese tipo quei borsetti che si attaccano, però più piccoli, si attaccano alla batteria per caricare, farlo uscire dall'esterno e passarlo dal vetro, come passo il filo dell'antenna passo quello, così almeno non sto a fare né attacchi né nulla, quando pongo l'impianto e lo faccio passare da dentro il cofano e via. Vabbè, non ti fidare più di tanto con pincette, cioè deve essere roba stabile, avvitata, vabbè, però scusa, cioè, come dico io, no? I cavi che sono nel motore, nel centralino, nell'abitacolo, da qualche parte devono passare, da qualche parte, o al centro, a destra, o sotto, da qualche parte devono entrare nell'abitacolo i cavi, se no da da dove cavolo passano? E ci sono quei gommini nelle scontine, ci le presi? Dai lati, dalla zona sportelli, perché per forza dove passano tutti i cavi si fa passare il cavo, poi che sia difficoltoso va bene, un altro conto. Da me anzi era abbastanza centrale, cioè veniva abbastanza bene, che io non avevo la sonda, no? Quella specie di cruna, no? Dove infilava il cavo e lo infilava lì e poi l'agganciava da dentro, capito? L'altro l'ho fatto io di piano, praticamente c'era il capo dove passavano i fili, l'ho allargato appena il buco, gli ho fatto passare tutti i fili che dovevo far passare, compreso quello dell'antenna, e fatto tutto il gioco. Non so tutti lì dove c'era il gomino quello riempito con i cavi che c'era, tanto è vero che quando io l'ho venuta la macchina l'ho lasciato tutto il piano. Ehi, e il motore era ancora buono, no? Il motore era come il primo giorno che l'ho comprato, camminava. Che aveva quel difetto, te l'ho detto, quello che a volte non prendeva l'accelerata, e so che il proprietario che l'ha presa dopo gli ha cambiato il sensore, proprio quello lì, il sensore che prende le accelerate eccetera eccetera, gli ha cambiato, 80 euro l'ha pagato. E è andata bene, ha detto che poi ho fatto il tempo finito con tutta la famiglia, ha messo portabagagli, la bambina, c'aveva la piccolina, abbiamo messo il seggiolino, tutto quanto, ha detto che hanno fatto 350 km in un giorno. Motore Adam Opel, giusto? Eh beh sì, Opel, motore Opel. Poi l'ho sempre messo a 102.000 quel motore, è sempre andato a bagliare, perché a me mi diceva il meccanico, guarda Gianni, ricordati una cosa, che l'olio è l'anima del motore, se tu cambi l'olio tante cose non le cambi nel motore, perché se l'olio è buono non si usura le pinne. Sembra di sentire un break lontanissimo, avanti? Non ho copiato bene di radio, mi sembra coso, Riccardino, aspetta che alza il volume, Riccardo tu sei? Ciao esce Riccardo, ciao, Santiago 7, la radio è 1, oh va a vedere che baracchino è questo, da 15 euro, se posso immaginare com'è, che tipo di baracchino è, mandamelo a vedere. Sì, allora se mi stai ascoltando, Ricca, anche qua sì, Santiago 7, però la modulazione è bassina, ho dovuto alzare il volume per copiarti, dai, io ti do due, vabbè, diciamo che è capibile, ancora capibile, facciamo tra il 2 e il 3, più 2 che 3 però, eh. Sì, anche onesto, Davide. Io sono generoso, vediamo se ha cambiato Mike. La vescica che è una zampogna, Gianni, permettimi di andare in bagno, se no me lo faccio addosso. E vai tranquillo, non ne voglio mettere sulla coscienza io, questo che è uscito con questo fischio. Infatti che ha messo la portante con questo fischio. Se tu Riccardo stai facendo 9 adesso di segnale, però c'è un fischio allucinante. La radio bassissima. Regarde. Sembra più alta, prova. Ah, ecco perché. E che apparato era quello là, Riccardo? Non lo so. Ma poi è sempre che fa apparati buoni. Io ho avuto l'Indianapoli. Era tutto quanto lì giù, che c'è un fantastico, con i menuri, eccetera, eccetera. Sembrava, non sembrava manco un baracchino, sembrava uno stesso. Tanto, me lo vediamo un po'. Sto Riccardino. Non per vicino bene, come mai esce così basso? Un apparecchio, dai, non è brutto, non è brutto. È un apparecchio, diciamo, per vettura, però è bello. Qua non adegua più di segnale, sicuramente l'ha venuto così perché l'ha toccata e non è riuscito più a metterla a posto, però vuole alzare la lecce e vedere un po' se va bene. Riccardo, allora io qua sto notando, sei sceso appena di segnale, sì, Santiago 6, ma come moduli scende a 5, c'ha dei forti picchi negativi. Gianni, te ne accorgi? Sì. Cos'è che ti ha detto sono in mutande? Io? Cosa ha detto? Sono in mutande. No, mi sarò mangiato le parole, cioè mi è calato di segnale, forse è quello detto. Mi è calato di segnale da 7 a 6 e come modula pure picchi negativi e modulazione come graffiata, non so come definirla. Soffiatami, così. Che a me arrivi così. No, la radio adesso sembra più bella, con che radio stai uscendo? Lo so, c'ha dei picchi negativi da 7 a 5. Strano, sì. Va bene, comunque veicolare, con l'antenna veicolare, Erika. Boh, pure propagazione, o portantina o propagazione c'era, non l'ho sentito. Comunque Marco, ti dico anche un'altra cosa strana, se quell'antenna magnetica la metto davanti, c'ho un E1 di stazionare, se la metto al centro mi salgono le stazionali. Sì, ma non è strano già. Perché cioè tu la devi tirare in base dove la, a dove la terrai sempre, anche io l'ho notato. Se la metto poco più avanti dal centro, perché hai visto come la capota mia, c'ha quelle venature, no? E quindi la devo mettere poco più avanti dal centro capotta, ed è meglio così, così risulta al centro del, di tutto il veicolo. Quindi se io l'ho tirata lì e la metto poco più, un po' più avanti oppure dietro, variano, variano come le stazionarie. Capito, ma io l'ho tarata al centro, poi la taro non scende di più, la metto davanti e scendo le stazionarie. Ma dico, dovresti tararla nel punto dove tu la userai sempre, la base magnetica, nel punto solito, capito? Io vabbè, sempre lì l'ho messa, infatti si sta consumando la carrozzeria lì dove c'era la base magnetica, tra graffi, sabbia, cose, io tirando con magnete, mamma mia. Infatti ti rovina tutta la macchina, non fa. L'unica è decidersi a metterla nel buco che c'ha, dove c'ha l'antenna della radio. E l'antenna della radio metterla sotto il cielo. Inaccettabile, è troppo dietro l'antenna, gli altera il lobo di radiazione già. Ce l'aveva anche coso tulipano di Porto Torres, così ce l'aveva, la stessa antenna che c'ho io, e lo sentivo a tutte le parti. Sì, poi lo senti lo stesso, però preferisco che il piano di riflessione lì, la capotta sia, cioè, al centro del veicolo ideale, si vede anche in quello schemino dell'assilio che ti allegano, o di certi apparati, no? Ti fanno vedere tutte le posizioni dove puoi metterla, parafango posteriore, lato grondino, oppure davanti dove c'è il cofano, oppure centro capotta, dietro la capotta, avanti la capotta, ti fa vedere tutte le forme di lobo di radiazione, e la migliore è al centro del veicolo alla fine. Scusa. E poi sono fesserie mie, alla fine non ti cambia nulla. È che io sono paranoico, quindi. Giù di me. Io l'ho tentata sino a farla scendere di brutto, l'ho fatta scendere di brutto negli altri canali. E si è alzata nel canale 40, ma non me ne ha fatti nulla, 1,3, 1,4 c'era il 40, ma gli altri sono 1,1. Ma se ci metto fissa ci metto la PDC 800, perché rimane morbida, leggera e va bene. Eia, per esempio. Dunque, che io ricordi, c'era PLC 600, 800 e 1000, come dire, il numero non corrispondeva all'altezza in tipo, la PLC 800 non era 1,80 m ma era tipo 1,60 m, la PLC 600 1,40 m che io ricordi, la PLC 1000 invece arrivava proprio ai quasi 2 metri, 1,09 m. La 1000 era più lunga, comunque è vero, era più sottile della Turbo, la PLC 800, quella inox, perché prima ancora c'era in fibra, quella nera, grossa, grossa, mamma mia, quella ti sfacciava i rami. Rende come la PLC, come la Turbo 2001, perché una volta l'abbiamo fatto la prova con un'altra persona che aveva la stessa antenna, da Sigma PLC 800, e siamo arrivati allo stesso segnale, uguale di lì. Comunque tu sbagli, perché prima c'è la PLC Minox, che è la più piccola, poi c'è la PLC 600, poi c'è l'800 e poi c'è la 1000. Sì, sì, sì, la Minox non l'ho contata perché è troppo corta, ma per caso mi pare di ricordare quella che aveva grode macchina che gli avevano rubata addirittura dal palazzo, dal cortile interno del palazzo. Boh. Non so, ma lui se l'ha immaginato chi era, me l'ha detto. Ma non ci pinno, cioè è fatto proprio per danneggiare, così è. Come già? CB ha detto che era. Ah, proprio per fregarci l'antenna. Su diavolo. Ehi, ma attaccarsi all'antenna, a parte il penale che si rischia. Boh. Chissà se esiste ancora la Minox. Vabbè. qui sono sempre Gianni, per questo sistema APL, cioè base magnetica a un PL, oppure con l'attacco laterale a portiera sempre a PL, in modo che ci puoi mettere l'antenna che vuoi. Vuoi quella da 27, la metti sempre a PL, quella che ho già. Vuoi l'antenna B-banda, metti quella B-banda. Vuoi l'antenna HF, sempre PL, la metti e funziona. Ma io con le antenne di B-banda non le uso, quindi mi va bene quella che ho io. Quello che voglio trovare io è l'attacco per il portabagagli, allora già me la metti davvero. La metto nel portabagagli con l'attacco a grondina, come quello che c'è su Wish, quindi Wish, sito cinese, occhio che sia roba omologata, che roba che non ti voli col vento, già, mamma mia, i cinesi sono dei figli indrocchia. L'ho vista, però non sono iscritto e non la posso prendere, cioè sia l'antenna che la base magnetica, tutto qua sta attaccato, pronto, costa una gazzata. E sono sicuro che va bene, meglio di tante altre che ti fanno pagare, magari non serve. Vabbè, basta il nome utente e password, di solito il nome utente corrisponde all'email, ti crei una password. Da Wish proprio non ci ho comprato, avevo comprato da AliExpress, da Banggood, oppure quell'altro, come si chiama? Gearbest non sono sicuro, no, quello Gearbest non sono sicuro, forse no. Poi ce ne sono tante minori mai sentite, che vendono sempre cinesate ovviamente, che possono andare bene, più o meno bene. Potevano venderla qua a Sassari dai cinesi, queste cose. L'avremmo comprato e buonanotte. Vabbè, ma se, cioè, problemi a ordinare non ce n'è, tanto sono siti comunque ufficiali e non che si pigliano i soldi e scappano già, non c'è problema per quello. Vediamo se Riccardo ha migliorato, vedo un segnale più forte, vediamo se lui, avanti, nulla, tutto tace. Attenzione, Riccardo, ci sei? Adesso attacco la stazione base, l'ultima che ho preso, la faccio andare. Quello è un po'... Ferma, vai, da un po' di tempo. Un pochettino la faccio andare. Lo so, non ve nessuno, cioè. Andiamo attori ogni tanto. Qua si sente qualcosa degli attori, qualcosa di PMR, ma niente di che. Vabbè, no, PMR io proprio non ne accendo più, non è tutto accendendo, non so manco in che frequenza stiamo andando, niente. Il solito canale monitor, il 7 dovrebbe essere. Ah, stavo sentendo che negli Stati Uniti la FCC sta facendo strage. Lì è una follia, cioè, lì praticamente per un baofeng ti mettono le manette e finisci in galera, non esci più. Addirittura stanno cominciando a denunciare chi li rivende i baofeng. C'è solo per averlo venduto, qua c'è però lo zampino di Trump dietro, vuole cercare di distruggere tutto il mercato cinese, a partire da Huawei. Si sta allargando troppo il signor Biondazzo, ho capito. Poi ci perdiamo noi però, perché alla fine quando fa una... già capito, noi siamo un potentato degli Stati Uniti, no? Quando vieta qualcosa ci passiamo anche noi alleati. Hanno sempre avuto questa problematica qua, ovvero di essere nemici della Cina, però la Cina a livello di cose, quindi tecnologia, si ne ha fatto di obbedienza. Sì, già se ne ha fatti, però ancora c'hanno quella cosa un po' da regime, no? È liberato sto Tibet, fatelo. Tibet o cos'era, adesso mi sfugge, dategli l'indipendenza, è inutile che state a continuare, dopo tante morti bruciate, monaci che si davano fuoco, se ne protesta, fate un gesto di civiltà una volta tanto, che loro di civile si mangiano anche cani, caspita. C'è detto un amico che delle guardie zuffe dice che prima era pieno a pedanida di cani e hanno trovato tutti quanti i resti di cani che macellano, teste, peli di cane, le zampe, che usano solo il corpo, capito? E magari senza saperlo ce lo fanno mangiare a noi, cioè non ce lo mangiano loro, lo danno ai ristoranti. Che carne è? Pollo, manzo. Vabbè. Ma Riccardo è rientrato, ci sei ancora Riccardo? Hai risolto? Tutto tace. Chissà se ci sono incendi in questo periodo, mamma mia. Ogni volta qua. Pensa che una notte, quella notte di incendi forti, di notte si sentiva, c'era un po' di arietta che entrava da fuori e si sentiva odore di bruciato, tipico di incendio, di fieno bruciato, di paglia bruciata, di sterpaglia, no? E chi non ci ha ritirato le palle di fieno che ha fatto, che le ha lasciate per asciugare bene, ha fatto una gazzata perché sono andati tutti un fuoco. A proposito, sulla nuova online è uscita la notizia che non so dove, in Sardegna, hanno trovato un baraccello e uno della protezione civile che lavoravano nelle antincendi mettendo fuoco, appiccando loro gli incendi con una miccia, hanno detto. Così dicevano a Sardegna, cioè accendevano questa miccia e la buttavano nelle sterpaglie. E li hanno beccati. E adesso... Perché non lo sapevi che facevano così? Non lo sapevi che erano, anche, che erano loro? La maggior parte di quelli che fanno gli incendi sono quelli lì. Perché? Cosa fanno? Questi forestali che prendono per 6 mesi il periodo dell'antincendio, no? Poi li licenziano. Quindi cosa fanno? Per fare il riboschimento bruciano, così poi li richiamano per riboscare le parti bruciate. Adesso se li cucinano per bene, ma cucinati proprio me. E io avevo conosciuto qualcuno anche, vabbè lì era problema mentale però, capito, che appiccava gli incendi perché gli piaceva vedere le fiamme e l'intervento delle vigili del fuoco, quello che era. Lui beccato e è messo sotto chiave tanti anni fa e ci parla di secoli fa. Un certo Andrea? No, assolutamente, però non si fanno nomi. Io già li faccio. Uno che era nell'antincendio, capito? Poi ha messo fuoco a motorino in un palazzo, a Giumai, piglia fuoco il palazzo e quindi tentata strage li hanno, avevano condannato, per carità. Mi sembra che l'avevo sentita. Ehi, più volte l'avrei sentita. Va bene, non va bene, va male, però così è. Comunque la maggior parte di quelli che mettono a fuoco sono di quelli che fanno pressione. Per fare il riboschimento, ti ripeto, fanno lui. Bruciano, poi li richiamano per fare il riboschimento, quindi li prendono altri 6 mesi e ci fanno un anno. Lo riattivano, eccetera, eccetera, ci fanno un anno così. Invece per mettere là dietro, vabbè che loro metterebbero fuoco comunque per sfregio. Bisogna cambiare persone, cioè quelli che hanno fatto antincendio, 8 mesi non vengono chiamati, viene chiamato uno scaglione di gente nuova a fare l'imbruschimento. E poi lo stesso, di nuovo, stagione antincendio, gente nuova, inferiore. E se no quelli si fanno pranzo e cena si fanno, capito? Scusiamo un attimo, cambio a Parigi. Ahia. Avanti. Buonasera Marco da questa parte, allora mi pare di vedere circa 8 e mezzo portante mutta ma con forti picchi negativi, molto molto evidenti. Provo a fare un altro passaggio, prima portante mutta e poi modulata, avanti. Ma non è microfono quello, lì c'è qualcosa in uscita che non va bene a livello di finale o di rientri. È anche marcato, come effetto marcato, come possibile sottoalimentazione, non lo so. Uguale, uguale. Marco. Ehi, dai un controllo, non mi viene il nominativo adesso. L'amico, fai un passaggio per Gianni. Ma che è, Vanino? Non l'ho riconosciuto. Bene, hai visto i picchi negativi, parecchio, forti. Prova. No, dove picchi negativi non ne ha. Ce ne ha positivi qua. Positivi? È raro mica che li veda i picchi negativi già. Tu sei, vabbè, a posto, perfetto. Come esce questo apparato? Bene. Cava, cava. Avanti l'amico, chi è? Presentati, dai, che non ho capito chi sei. Perché c'è una radio particolare? Buh. Comunque la modulazione si sente, diciamo il volume di modulazione potrebbe essere anche ottimale, non, i picchi non danno problemi comunque nella ricezione, nell'ascolto. Ma che è Gigi? No, credevo che fosse, non lo so, non lo so la verità. Chi sei l'amico? Avanti. Oh, Gigi dovrebbe arrivare più forte, 9, dal 9 in su. Boh. Io sto andando adesso a 12 volts con questo apparecchio. Come il segnale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma tu sei pompendi, sei 9 più 25 adesso. Vabbè, lo so, adesso sto pompando. Pompendo. No, ma dico, sono i watt naturali? No. Ah. Sì, mi sembra di non sentire saturazione. Prestiamo meglio l'orecchio, fai un passaggio già, ti attenuo anche. Guarda, 1, 2, 3, prova, cambio, ho messo le luci blu, l'ho fatto bellissimo questo apparecchio, sta troppo bene. Sì, sì, bene, una modulazione normale, però chiara, limpida, come può essere un 3009 o simili. Cava, cava, ma io posso anche metterci il checco, eh. Hola. Hola. Vediamo un po', Ecco. Voi, Marco! Requisito fondamentale, l'ecco. Ehi, ascolta, aspetta che non ho capito che apparecchio sia, vabbè, forse sì. Che scheda ha dentro? La scheda interamente che cos'è? Una IPT oppure, che ne so, Cybernet? Non lo so, è un Intec base 479, mi fa. Forse 497? Boh, adesso non mi ricordo. Ma potrebbe essere anche diversa la scheda mia, potrebbe essere una scheda Uniden Ranger, poi Ranger Uniden, no? Va bene, dovrei vedere una foto dentro, però sono in crisi di astinenza da smartphone. Aspetta, avanti l'amico, ti sei calato drasticamente di segnale, vieni avanti. 5,5, 5,5 senza picchi negativi. Il nominativo non riusciamo a capire chi sei, però. Non lo vuol dire, dai. E come ti chiamavi di nominativo tanti anni fa? Perché io modulo 40 anni fa, dai. Quindi probabilmente ti conosco. Come? Nevada. Io sono doppio rubo, te l'hai mai sentita doppio rubo? Io avevo mollato per un po' di anni e poi ho ripreso anch'io, ma già da tanto, sono già un 13 o 14 anni già che sto modulando. Sì, a voglia è troppo. Massimo devi avere un eccito, ma proprio andando male. No, sotto il 2 non è pericoloso già. Sì, per me non è così. Per me massimo è 1,5 di stazionare. Io gli apparecchi che ho avuto 1,2, 1,3 al massimo, proprio 1,4, proprio andando male. Che antenna è quella della Lafayette, ha preso quella piccolina. Ma la boomerang fusero adesso c'ha quella grande, quella lì dovrebbe andare bene. Voglio lo registrate le stazionali, scusa, bisogna, c'è lo stub e la devi regolare. Esatto, con due portatili, e vi dici capisci quando sono regolate bene. Sì, sì. Però devi regolarla. Lo so perché gliel'ho fatto ordinare io quella lì. Me l'ha chiesto a me e Marzia che cosa poteva ordinare di antenne. E gli ho detto cosa ordinare. Claudio. Ciao Claudio. Oh, un ultimo messaggio che mi hai mandato non l'ho capito. Cosa stai usando? Ciao Gian. Ehi, quel presidente lì cosa stai usando? Già va bene, lascia quello dai. Poi con calma quello grande vediamo di darle una settata, dai. Facciamo finire queste fedi e poi già ci sentiamo Claudia, ok? Dai, sono entrato a salutarti. Sei molto forte comunque qua. Zona Monte Oro, 9 abbondante, sì, Radio Super 5, Cla. Avete parlato in due, cosa hai detto, Cla? Sì, magari quelli lascia passare il tempo, poi vediamo una sistemata in generale di dai, ok. Ti saluto, Cla, che è arrivata gente, dai, ti lascio con loro e ci sentiamo alle prossime, ok, già ci aggiorniamo telefonicamente, ciao. Ciao, già, riprendi. Sì, qui quando vi vedete al limite anche le stazionali, perché mi stava dicendo che c'ha 1,8 di stazionale. Sì, è tutto regolare lì, lui è tutto precario, sta facendo le prove, adesso dobbiamo anche settare un'altra radio, vediamo un po', dai, poi con calma le do una mano, adesso godiamoci questo straccio di ferie e poi già ci vediamo con Claudio, ci conosciamo una vita. Va bene, dai, riprendete pure, io vi lascio, rimango in ascolto, ciao. Ciao, ciao, però se lo conosco anche io, non lo so però. Adesso il nome mi sembra di averlo sentito, il nominativo. KK. Claudio, aveva anche Desidio, non li hai viste Desidio che ci aveva usato? Quelle lì sono buone, quelle lì sono delle antenne. Non lo so quanto costano, però lei mi ha chiesto che cosa ordinare, ho detto ordina 5 ottavi, due antenne 5 ottavi e una boomerang, una, due boomerang, che magari qualcuno che non vuole piazzare l'antenna grande si mette quella. No, quella se è quella della LEM va benissimo, va molto bene quell'antenna. Esce benissimo da tutte le parti, anche fuori. E che antenna è? No, io ho preso la Game Master, c'avevo la Mantova 5, però prima i radiali le cornacchie li ho cambiati e me ne hanno rotti di nuovo. Gli ho messo delle lenze per gronghi per tenere il radiale, ma hanno rotto anche quelle. Alla fine mi sono rotto le scatole e ne ho preso una senza radiali. Va benissimo, arrivo da tutte le parti e almeno non c'ho quel problema. Ma l'è piazzata male probabilmente, ci sono le misure tra uno stile e l'altro, ci sono delle misure che devi rispettare, perché sennò uno entra di più e l'altro di meno. Questa che ho io, il vento ne prende a tutto andare, ha preso maestrali furti e non si è mai rotto. Ma tu il portatore e magari a me mi conosci anche allora. Ma io ti do una dritta, facevo l'autista al Tourist Market, adesso non lavoro più, adesso non sto più lavorando, sono in pensione. Però prima ho lavorato 38 anni a Porto Torres, quindi meglio così, dai. Avanti Marco, tu quando vai in pensione? Io da una vita che sono in pensione, Gianni. Ah, io credo fosse Sassari l'amico, invece è Porto Torres, che per me poi è anche un po' leggermente negativa, perché portata ottica vedo la zona industriale, però la cittadina no, c'ho i palazzi a ridosso di Prunice da lì, via Goriccia che me li copro, che me la copro. Ah, cosa prezzo? Lì c'avevo una cliente io al faro lì. Ho capito la zona qua e quindi sei abbastanza in alto, va? Ah, guarda che questa va bene, mi stai arrivando bene, io pensavo fossi a Sassari. Stai arrivando bene qua, io ti ascolto bene. Con tutto che c'è stazionari, se puoi regolare stazionari va ancora meglio. Qua arriva 5 e mezzo. Sì, qua arriva bene. Qua arriva 7. E io vabbè ce l'ho più di fronte per dottore. Però va bene, dai, la radio è buona. Santiago 9 sta arrivando qua, Claudio. Ma non sai dove abita tu? Orientativamente te lo dico io. Dove c'è il faro? Esatto, lo conosci molto molto bene. Ho capito, io pensavo che fosse la Sassa di classe. No, è l'aeroporto Torres, c'è una zona ben alta, è proprio di fronte, qua arriva Santiago Nova. Fatti conto, Santiago Nova, quindi arriva benissimo, eh. Ma già lo conosci, già lo sai chi è? Scappa. Sì, probabilmente sì, probabilmente lo conosco, anche perché c'ho clienti di vicino, quindi magari qualche volta l'ho anche visto. Già l'hai visto, conosci anche il figlio, tranquillo. Va bene, comunque, magari quando ci vediamo te lo dico di persona, Cazzo che fresco, adesso sì che c'ho fresco, Marco lì, adesso sì che c'ho fresco. È dalle parti tue, qua non ce n'è fresco. Piuttosto, che ore sono? Che non ho orologi qua. Ecco. Sono le 6:10. Chiappa, posso entrare a salutare una persona? Chiappa, ciao Gianni, ciao Marco e ciao Claudio. E ciao Claudio di Porto Torres, ben ascoltato dopo tanti anni. Avanti Claudio di Porto Torres. Chiappa, chiappa, dai. Chiappa è rientrato, stavi mettendo tutto. Ok, dai, vi saluto, che sono entrato apposta per salutare a te, che ero tanto tempo che non ti sentivo. E niente, che sto uscendo. Avanti Claudio Sassari. Claudio Campagna, ciao Franco Lì, buonasera anche a te, ben ascoltato, saluto in cordialità. E siamo in contatto già da tempo con Claudio per mettere un po' in sesto tutto, dai. Va bene, però io vi lascio, dai. Vado, no, non ci soltanto la radio, dai, mi voglio un po' rinfrescare di nuovo, dai. Ci sentiamo, ciao Claudie, ci aggiorniamo telefonicamente, dai, fammi sapere. Il cambio per Gianni, vi saluto, QRT, ciao. Ciao. Vabbè, già Claudio, non ci vuole nulla, con due portatili si fa quel lavoro. C'è uno con portatili giù, l'altro con portatili su, si regola la stazione che l'abbiamo fatto a casa. Ciao Claudio, dai, mettiti il baracchino a bordo piscina. Sì. Già si può fare, dai. No problem. Ma adesso sei attaccato o sei normale? Si appaga. No, vabbè. Te lo sto chiedendo perché sentivo la radio un po'. Non è pulita, mi capito? Ma infatti, tanto adesso d'inverno ritornano tutti quanti, speriamo che non ritorni il Covid-19, sennò siamo tornati in casa, ui, meno male c'avevo la radio, io qualche cosa la facevo. Gianni, io vado a cucinare, dai, che tante ora. Quelli ti per me, ciao Claudio di Porto Torres, ben sentito, ripeto, segnale 5:30 per te. Ciao Gianni, vado a cucinare, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo, dai. Buona continuazione. Quindi Claudio, da quando hai ripreso a modulare? Ah, non pensavo che avessi già acceso altre volte. E vabbè, dai, piano, ti sistemi di nuovo. Ma comunque quella boomerang è buona, se è quella della LEM è molto buona, perché ce l'ha anche l'Ubrofetta di Sassari. E arriva da tutte le parti con segnali buoni anche. Ma la Mantova 1 è nuova o lo devi ripristinare? La Mantova 1 è nuova oppure la devi ripristinare? Vabbè, la Mantova 1 già è buona. Anche pochi splatter e basta, QRM ne ha di meno della Mantova 5 anche. No, già va bene. No, io avevo la Mantova 5, andava benissimo, ce l'ho avuta per 12 anni. Mi sa che la Sirte l'ha fallito, non lo so, non l'ho più vista come casa. La Sigma c'è la LEM, c'è la Sirio, però la Sirte non le ho più viste le antenne della Sirte. Addirittura ci sono case nuove, adesso che non avevo mai sentito, GDD, non so, GDD, che le fanno loro le antenne, era la fabbrica Fru. Io la macchina la volevo mettere, però c'ho la macchina nuova, fare il buco nella cappotta non mi piace, la base magnetica ti graffia tutta la cappotta, ci sto pensando un po', poi ho visto che c'è poca gente, quindi mi ha un po' demoralizzato. Ma la mia intenzione sai qual era? Togliere l'antenna della radio e metterla al posto dell'antenna della radio. L'antenna della radio e metterla sotto al cielo. E dice che prende lo stesso, ce l'aveva un amico mio così, dice che prendeva tranquillamente. La base magnetica non mi piace, a me questi fili volanti, ogni volta stare a toglierla, a fare, a me piace una cosa fissa. fissa. No, no, si fissa in macchina e boh, basta. Come ce l'avevo nella nostra Station Vego, ce l'avevo la Turbo 2001 e quella lì era come avere una mappa, prendeva tutte le parti, facevo DX, camminando con la macchina facendo DX, da portatore sparlavo con l'Alghero senza problemi, cosa che certi da casa non ce la fanno. Sì, la polizia, cosa stanno in base? E deve essere lì se è entrato nella radio loro. È successo anche a un camionista, tu già lo sai, nell'estrauto da Mario, eravamo da Mario e stavamo parlando, ho visto l'antenna del baracchino nella macchina mia, e ho detto, ma c'è il baracchino? Sì, noi occhio, non mettere lineare, roba del genere, perché a me mi hanno fermato perché sono entrato nella radio della polizia, quando stavo passando mi hanno attaccato le sirene e mi hanno perseguitato, mi hanno fermato e mi hanno detto, ci dica dov'è l'amplificatore, se no li sequestriamo tutto il mezzo e lo troviamo noi. E no, non ho un amplificatore, lo tolga fuori, se no li dobbiamo sequestrare il mezzo. Alla fine era dovuto tutto, ragazzi, c'era 1200 watt. E ne aveva due accoppiati, due da 600 accoppiati ne aveva. E aveva batteria a parte, tutto quanto l'impianto a parte aveva fatto. Ok, ciao, buona serata, ci sentiamo. Mi ha fatto piacere, dai, rientra che ci fa piacere.